tempo. YouTube Social Village di Marta Cagnola. Io non resisto, la voglio tutti gli anni, perché ogni anno noi, così fine settembre, ci facciamo questa gita meravigliosa a Genova, perché c'è il Salone Nautico e io ogni volta che arrivo a Genova, ma proprio quando comincio a vedere quello spicchietto di mare, avete presente dall'autostrada o anche arrivando col treno che vedi il primo spicchietto di mare? Ah, io comincio a cantare mare, profumo di mare, quindi un po' di mare, profumo di mare per tutti, per il nostro RadioTube Social Village e poi dalle 17 alle 18 il nostro RadioTube Social Network, qui con me Marta Cagnola in diretta dal Salone Nautico di Genova. Ah, che bello! Mi sono già arrivati dei messaggi chiedendomi se ho mangiato la focaccia. No, ho mangiato del fritto di mare che era buonissimo. Ma quando a Radio 24 si parla di Genova, c'è solo una voce che è subito familiare agli ascoltatori di Radio 24, che subito fa sentire anche qui mare, profumo di mare. Sapore di mare. Questa è una sviolinata proprio sul ponte delle feste della Nave della Crociera. Dai, capitano Stubing. Ciao, eccolo qua, Andrea Ferro, il nostro capitano Stubing, il nostro corrispondente da Genova. Allora, intanto dimmi subito, io vedo questo sabato pomeriggio qui al Salone Nautico di Genova un sacco di gente. Sì, tanta gente. Cioè, più del normale. Assolutamente sì, sono tre anni che ci incontriamo, no? Sabato pomeriggio sì, a quest'ora. Sì, sono tre anni. Se ricordi l'edizione di due anni fa, beh, non c'era questo flusso di gente. No, io, ma addirittura ci sono le code ai botteghini e hanno chiuso la sopraelevata. Devi sapere che per un genovese, quando si chiude la sopraelevata, vuol dire che la fiera è a tappo. E questo è un bel segnale. Ora, al di là dei disagi inevitabili, però vuol dire che questo salone sta riprendendo il vento in poppa. Ah, ti piace la metafora? Ragioniamo sulla metafora. Bella metafora. E così, da genovese, l'auspicio è che l'abbrivio, sempre seguiamo, se ti piace, sai, abbrivio, guarda, allora io sono una ragazza di lago, lo sai, quindi me ne intendo mi preoccupavo, un po'. Sì. Però bene, non sono le stesse cose, cerchiamo di non confondere, perdono, no, con diverso, tutto il rispetto diverso, per il lago, diverso, però. Diverso, il mare diverso. È un'altra cosa. Dicevo che questa aria benefica, questo sole, diciamo così, metaforico, perché oggi un pochettino ci sta tradendo, possa così spingere la città in un angolo, o meglio, in una prospettiva virtuosa, che possa insomma tornare ad essere una città, un porto d'arrivo e non un porto di partenza. Tieni conto che questa è una città che sta vivendo un momento comunque difficile, dalla quale purtroppo si deve andare via per trovare lavoro, i giovani vanno lontani, vanno all'estero, vanno semplicemente più vicino a Milano, però c'è una situazione indubbiamente occupazionale molto delicata. E l'idea, mi piace pensare da genovese, è che il salone possa essere di buon auspicio questa riscossa, come è risorto il salone, che risorga anche Genova. Forse sto buttando il discorso. Buon forse auspicio o anche che ci sia un legame proprio nel rilancio? Beh, diciamo che è uno dei simboli di questa città, il salone, 57esima edizione, quindi ormai voglio dire è un simbolo consolidato. Va detto che il salone ha sempre così segnato un po' la storia di questa città, quindi nel momento più buio indubbiamente anche la nautica ha subito un contraccolpo, anche se non c'erano dei fattori di collegamento, e quindi ripeto, insisto in questa così dimensione improntata all'ottimismo, che questo salone della riscossa possa spingere al largo anche la città, che possa tornare a essere peraltro una città bellissima, perdonami, è la mia città, però una città fantastica. è stata anche letto la più bella città d'Italia, sai? Sì, recentemente l'ho letto. L'ho letto. Io sono un filino scettico, pur così apprezzando il risultato, perché è difficile dire qual è la città più bella d'Italia, secondo me è impossibile. Beh, insomma, ci sono un po' di. Però 20 anni fa avresti mai detto una cosa di questo genere? No, peraltro posso dire che tutti mi hanno detto i giorni scorsi: ah, sabato vai a Genova, guarda che piove. No. Beh, le previsioni inizialmente non erano, no, non erano confortanti. Si sta benissimo, quindi no, vabbè. Vuole farsi un giretto anche domani. Anche il meteo non si parla di sole cocente, ma insomma non ci sono turbative sotto il profilo meteorologico. Questa insomma è una bella città, è una città che deve riprendersi. Ora la smetto qua, mi rendo conto che il cuore mi sta spingendo a fare qualche considerazione, mi rende un po' serioso e forse non sono credibile. No, allora, tra l'altro parleremo moltissimo di Genova in questa puntata, perché allora vi racconto un po' cosa succederà oggi. Vabbè, vi porterò ancora in giro per l'Italia come sempre in ogni puntata insieme ad Annalita D'Ambrosio, e lo faremo tra poco. Parleremo anche di musica come sempre nel nostro RadioTube Social Village, ma nella seconda ora parleremo anche di Genova per via del calcio, soprattutto una delle due squadre, non vi dico quale, vabbè, ma stai per una ragione che qua c'è una rivalità, lo so, ma sai che io sono una ragazza molto temeraria, quindi io parlerò in particolare di una delle due squadre di Genova. Rideremo con Genova, rideremo anche un po' dei milanesi, ahi noi, e insomma parleremo molto di questa meravigliosa città che mi dicevi che grazie al Salone Nautico ha anche una chicca in più. Sì, ha una piazza in più. Ah, allora facciamo una cosa, sì. No, io non la voglio ancora svelare, io devo dirti che arrivando qui io ho trovato qualcosa di diverso, di variopinto e di molto attraente. Non ne parliamo subito, dai. Ma dai, posso solo dare il nome, giusto per dare un'indicazione della toponomastica: Piazza del Vento. Cioè, noi abbiamo dei corrispondenti che usano dei termini, noi li abbiamo scelti per toponomastica, però, È fantastico. Allora, Piazza del Vento. Piazza del Vento. Io avrei un architetto. Allora, aspetta, facciamo una cosa. Sì. Non parliamo subito della Piazza del Vento, non parliamo subito dell'architetto, perché come vedi sono quasi le 16:15 minuti. Ah. Allora, per tutti quelli che vogliono venire a Genova, che stanno pensando di muoversi in questo sabato pomeriggio, o che in generale sono in giro perché il sabato pomeriggio le persone si spostano molto, diamo la linea agli aggiornamenti della viabilità, poi ritorniamo in diretta dal Salone Nautico di Genova e scopriamo che cos'è questa Piazza del Vento. A tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Radio Tube Social Village. Fare le mie sviolinate al nostro bravissimo Andrea Ferro da Genova. Ho anche messo una foto prima per tutti quelli che sono un po' curiosi sul mio account di Twitter @MartaCagnola. Andrea Ferro, sei questo Sea of Love, il mare dell'amore. Siamo su un ponte di una nave, tre miglia al largo, stiamo prendendo il largo. Capito. Siamo circondati da barche bellissime qui al Salone Nautico di Genova. Una splendida giornata, veramente un po' grigia, ma si sta bene perché fa caldo. Fa caldissimo. Abbiamo detto una folla come non ne avevo come vista nei vecchi tempi, come ai vecchi tempi. Io ci venivo da bambina. Allora volevo raccontarti il salone di una volta. Perché mi portavano i miei genitori, era così. Sabato e la domenica non si arrivava, cioè c'erano proprio dei problemi ad entrare. Stiamo andando su quella strada e questo è indubbiamente, ripeto, poi la smetto, un bel segnale per il salone, un bel segnale per la nautica, che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, un settore che sta tirando tantissimo, più 18,6% di fatturato, anche se la strada da recuperare dopo la crisi è ancora lunga, ma dicevo, un bel per la nautica, un bel segnale per Genova. Stop, basta. Torniamo alla Piazza del Vento, allora. Ecco. Che cos'è questa novità che immagino abbia comunque fatto felici i genovesi, anche se i genovesi insomma sulle novità sono sempre un po'. Sì, però il fatto che ogni tanto allora, accada ragazzi, qualche cosa. Ragazzi, io adesso vi racconto com'è messa questa postazione. Io sono circondata da tre liguri e un napoletano, quindi devo stare attenta come parlo dei liguri, sì. Che però insomma per le novità verità non è che sono proprio è vero, è tutto abbastanza difficile, però il fatto che accada qualcosa, diciamo così, viene vissuto come un bel segnale. Questa è una piazza che ha una sua simbologia molto forte, ma per raccontarla, per spiegarla, per farla vedere anche per radio, diciamo così, io ti proporrei l'intervista all'architetto Paolo Brescia, che ha elaborato un'intuizione di Renzo Piano e ha dato vita e struttura a questa piazza. Allora, a questo punto io proporrei di ascoltare questa breve intervista. Provo a descriverla. Allora, è un campo di 57 alberi, alberi di barcavela sostanzialmente, quantomeno dovrebbero evocarli, che sono strollati con dei fiocchi, che quindi parlano del vento, però parlano anche del sole. E poi c'è un campo sonoro che è stato chiamato, è un'installazione nell'installazione, perché è un campo che evoca, diciamo, le sonorità del Mediterraneo, del Mare Nostrum, che è stato appunto chiamato Melodie Mediterranee. E poi c'è un'opera di un artista, che è un amico poeta e artista di strada, che è Ivan Tresoldi, che ha fatto un'Anamorfosi, che è un'opera che riproduce una sua scaglia, che recita: chi getta semi al vento farà fiorire il cielo. Poi sono anche le altalene. Ecco, la cosa importante è questa, perché noi abbiamo pensato non come un'opera, come dire, simbolica, ma soprattutto un'opera da usare, cioè un'opera collettiva, perché avete visto che c'è tantissima gente coinvolta, ma soprattutto un'opera che tiene insieme la gente sul mare, per ricreare proprio quella che è l'urbanità di Genova sul mare. Quindi le altalene sono un po', come posso dire, il modo per star qua, per stare insieme, per riscoprire il piacere di ritrovarsi in pubblico. Ed è bella. È raccontata anche bene, quindi abbiamo vento, abbiamo i rumori. Ho googlato perché volevo vedere se ci sono delle belle immagini, io l'ho vista dal vivo arrivando. Sì, cercatela perché è davvero bella questa piazza del vento. Un po' di curiosità di questo salone, Andrea. Beh, innanzitutto ti dico che è una grande festa del mare, quindi certamente si viene qui per guardare le barche, qualcuno le compra, è bene, quindi beati loro. Anche. Io ogni volta faccio finta di scegliere. Sì, e poi è chiaro che io guardo, dico questa. Ci sono barche per tutte le tasche, come si suol dire, ti puoi comprare un piccolo gommone, sì, come comprare quella. Ci sono venuti a prendere. No. Cosa succede? C'è la nave. La cronave da crociera. Sì. No. Il capitano Stubing, di Love Boat. È una Ro-Ro porta container. Io ho una certa conoscenza. Speravo fosse più romantico. Comunque abbiamo detto navi, barche per tutte le gusti, per tutte le tasche. Per la mia tasca sono quelle che si gonfiano. Sì, non lo so. Io ti proporrei il San Lorenzo di 126. Che cos'è? 37,95 metri, quindi quasi 38, va bene? Sì. Largo 8, va bene? Sì, ci sto. Allora, per quanto riguarda la sistemazione, sì. 10 posti, va bene, ospiti? Sì, qualche amico, vorrei mica andare in giro da solo per Poi il layout interno prevede sul main deck, cioè sul punto principale, of course, una cabina armatoriale di generose dimensioni. Cioè, per tutti i miei vestiti. Dotata anche di ufficio privato, così puoi anche trasmettere eventualmente. Giusto. Se proprio uno pungesse vaghezza di lavorare. E i bagni separati per lui e per lei. Poi quello è il punto di partenza. Beh, sì. Certo. Stai scherzando. Poi sul ponte inferiore trovano invece posto due ampie cabine VIP e due cabine con letti matrimoniali o gemelli. Ho parlato dell'ammiraglia, sai che tutte le volte sono l'ammiraglia. Poi per la barca più piccola è un gommone zar. E poi ti dico che, essendo questa una grande festa del mare, e lo dico a chi volesse venire a Genova da questo pomeriggio, comunque da domani, il salone resta aperto fino a martedì, c'è la possibilità anche di provare dimostrazioni dal vivo, c'è la possibilità per i bambini di imparare ad andare a vela. Ho appena visto uno dei due tuoi ragazzi che passavano prima. Sì, ha provato. Ha provato, bene. E poi, Davide, ciao. E poi c'è la possibilità anche di farsi schizzare in alto con l'idrogetto, ce l'hai presente? Io non rido perché quelle scene alla Calboni, Filini, ricordando. Sì, ricordiamo anche il grandissimo Paolo Villaggio, che è stato celebrato giovedì sera con una grande festa che lo ha ricordato, che è l'emblema, a mio avviso, un po' della genovesità. Bellissimo, dissacrante, vero. Intelligente, capace di varcare anche un po' le epoche con questo suo stile, no? Senti, so che ci sono stati anche degli equipaggi un po' particolari. Poi sì, perché allora tu sei arrivata, forse non so se hai avuto modo di vederlo, ma c'erano davanti alla fiera e quindi davanti al come si dice, waterfront, ora mi dicono che bisogna parlare così, del Levante, c'erano 180 barche a vela che partecipavano alla regata Mille Vele e c'era un equipaggio, diciamo non comune, un po' particolare, perché c'era il sindaco, che è l'armatore, Marco Bucci, poi come mozzo aveva il presidente della regione, certo, Giovanni no? Totti, e l'altro giusto? Era l'assessore ai trasporti Rixi. Quindi voglio dire che comunque fa capire qual è l'attenzione istituzionale. Per avrebbe Insalo. Potuto replicare anche il centrosinistra, la buttiamo in politica. D'Alema. Immagini D'Alema, voglio D'Alema, sfidare, a fare i bordi. Bello. Anche se poi l'abbiamo sempre visto su altri tipi di imbarcazioni. È spinoso, qua non addentriamoci in politica. Allora Andrea, io per il momento ti ringrazio perché insomma in questi giorni hai seguito e continui a seguire il Salone Nautico per Radio 24, abbiamo sentito tutte le trasmissioni e anche tutti i giornali radio, però noi siamo qua, non te ne andare, tanto noi siamo qua nella postazione, posto ce n'è, stai qua con noi, arrivano un sacco di ospiti. Devo solo spostare il camion perché va bene. Chiudo. Va bene, ok, allora Andrea Ferro sposta il suo camion, quando è che va in onda? Lunedì 13:45. Come si è fatto lanciare la sua trasmissione Andrea Ferro? Devo spostare il camion. La descrizione di Andrea Ferro nell'auto lanciarsi la trasmissione. Ci tengo, viva i camion. Facciamo una cosa, adesso continuo a portarvi in giro, non solo a Genova, anzi ci spostiamo e lo facciamo come ogni settimana in questo modo. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. Se il Signore avesse conosciuto questa piana di Puglia, luce dei miei occhi, si sarebbe fermato a vivere qui. Così Federico II di Svevia descrisse il Tavoliere delle Puglie, quando scelse Foggia come sede dell'impero e centro strategico del suo vasto regno. Sono parole che descrivono la bellezza di una terra capace di emozionare e affascinare chiunque abbia la fortuna di poterla visitare. E anche questa settimana abbiamo il nostro spazio dei viaggi, non solo perché siamo a Genova, siamo al Salone Nautico, ma vi portiamo insieme alle radioguide del Touring Club Italiano a scoprire magici luoghi d'Italia. Lo facciamo come sempre con Annarita D'Ambrosio. Ciao Annarita. Ciao Marta. Allora Annarita, dove andiamo oggi? Allora, oggi nella nostra radioguida andiamo in Puglia. Sul Tavoliere delle Puglie, che è un territorio situato nel nord della regione, molto bello, molto particolare, che ha dei borghi bellissimi. Ma Marta, lo facciamo per un motivo particolare, perché in questo fine settimana comincia una festa molto bella che vogliamo segnalare a tutti gli ascoltatori, che è la festa delle bandiere arancioni del Touring Club. Da questo fine settimana fino al 15 ottobre, per 4 fine settimana, sarà possibile scoprire dei paesini dell'entroterra in tutta Italia. Poi nella nostra radioguida noi vi segnaliamo la Puglia, perché sono dei paesini molto particolari e molto belli. Ma insomma l'iniziativa è abbastanza vasta e ne vogliamo parlare. Lo ringraziamo con Marco Girolami, che è il direttore delle strategie territoriali del Touring Club. Salve. Buongiorno, bentrovati. Allora, abbiamo detto un'iniziativa che riguarda l'Italia intera, poi noi abbiamo questo focus sulla Puglia, però la festa delle bandiere arancioni quest'anno, Girolami, è un po' più speciale perché è l'anno dei borghi, vero? Sì, esattamente, questo è l'anno dei borghi, quindi decliniamo con ancora maggiore attenzione e maggiore impegno questa iniziativa del Touring Club Italiano su tutti i borghi italiani. Ce ne sono tanti in tutta Italia, con tantissime iniziative nel corso di queste 4 settimane. Sì, negli anni il Touring ha certificato oltre 200 piccoli paesi dell'entroterra e gli abbiamo consegnato il nostro marchio, che è la bandiera arancione, e nei prossimi 4 weekend appunto in 100 di questi piccoli paesi ci saranno dei momenti speciali, dei momenti di accoglienza, dei momenti enogastronomici, dei momenti di festa, che proprio Touring vuole sottolineare come l'opportunità di valorizzare una parte dell'Italia, una parte del paese che riteniamo fondamentale sia per la propria storia ma anche proprio per il proprio futuro. Noi vediamo nei piccoli comuni una grande opportunità anche di crescita non solo turistica del paese. Ecco, un appuntamento a tutto tondo, l'ha detto anche lei, non solo iniziative culturali ma anche laboratori, appuntamenti enogastronomici. Il Tavoliere delle Puglie, che segnaliamo in particolare nella nostra radioguida, offre delle straordinarie opportunità. Sì, ci sono alcuni comuni che proprio hanno la capacità di raccontarsi sia negli elementi culturali che anche negli elementi enogastronomici. Posso citare Rocchetta Sant'Antonio in provincia di Foggia, che ha preparato un bellissimo programma di valorizzazione del proprio centro storico, ma anche iniziative dedicate ai bambini. Quindi c'è il mercatino con i prodotti tipici, c'è una sfilata di veicoli della polizia e dei carabinieri anche per presentare alle giovani generazioni un po' la storia di alcuni di altri simboli appunto del nostro paese. Ci sono dei giochi dedicati ai bambini, anche qualche prodotto enogastronomico tipico dell'area e quindi una valorizzazione anche della capacità produttiva del territorio. Mi piace molto l'hashtag aggiungi un borgo a tavola. Sì, l'idea è scopriamo tutti insieme questi borghi attraverso forse l'elemento che accomuna tutti, che comunque è la tavola, è il momento dell'incontro, è il momento della socialità, è il momento anche di stare con la famiglia, ma anche di scoprire dei posti nuovi, anche delle nuove persone. Tante segnalazioni abbiamo detto, oltre la Puglia, che cos'altro può segnalarci di particolare? Ci sono appunto 100 comuni coinvolti nei prossimi 4 weekend, tutti i programmi sono su bandierearancioni.it, ce ne sono tantissimi, da Tignale a Brescia, Soave nel Veneto, San Casciano dei Bagni a Siena, ognuno con la propria caratteristica sia culturale ma anche col proprio prodotto tipico. Grazie al direttore delle strategie territoriali del Touring Club Marco Girolami. Marta, possiamo fare il giro d'Italia. Poi il Tavoliere delle Puglie lo segnaliamo in maniera particolare perché andiamo in giro ascoltando la nostra radioguida. La scarichiamo dal sito di Radio 24 e anche dal sito del Touring Club italiano e anche questa settimana viaggiamo con la forchetta in mano, che meraviglia. Che è ancora più bello. Grazie Marta. Grazie Annarita, alla prossima settimana. Radio Tube Social Village. E siete ancora in diretta con noi, con me, con Marta Cagnola, ma non avete idea di cosa sta succedendo in questa postazione al Salone Nautico di Genova? Si sta popolando di un sacco di persone. Tra poco vi faccio una storia di Instagram perché veramente, vabbè, un sacco di persone bellissime, molto simpatiche, ma poco a poco ve le presenterò. Prima però abbiamo una piccola pausa, pagina musicale, perché ci è venuto a trovare negli studi di Milano 2 giorni fa. Io però non potevo non cogliere l'occasione di fargli un'intervista, di portarlo anche se così un po' indifferita al nostro RadioTube Social Village, perché lui è veramente una leggenda, è veramente un personaggio straordinario. Vabbè, non vi svelo chi è, eccolo qui. Diceva che non si esce vivi dagli anni Ottanta, eppure a un certo punto impercettibilmente c'è stato un cambiamento. Forse siamo usciti e più o meno vivi dagli anni Ottanta e abbiamo cominciato a riscoprire i 90. Però c'è questo album, La mia generazione, che riscopre gli anni 90 in maniera, vabbè, come gli altri non sono riusciti a fare. Era ovvio, perché grazie. L'ha fatto Mauro Ermanno Giovanardi. Ciao Mauro. Allora, in tanti si sono appropriati in questi anni degli anni 90, in tanti modi, però negli anni 90 è successo qualcosa di molto importante. È nata una scena musicale italiana assolutamente inattesa, che non nasceva neanche dalle ceneri di quello che era stato prima e che ha cambiato tutto. No, infatti io voglio raccontare esattamente questa stagione che ho vissuto anche da protagonista, per cui volevo fare un omaggio proprio a questa stagione qui, perché è importante, secondo me è un momento importante della musica italiana. C'era una fetta di pubblico che era un po' orfana, no? Certo. di gruppi che magari un sacco di gente che sentiva musica inglese, americana, che aveva sentito dagli Smith, gli Cure, insomma, non trovava un corrispettivo in Italia che raccontasse questo sentire. Quando però hai deciso di fare questo disco, hai dovuto compiere delle scelte. Tantissime. C'è un Marlene disco... Kunz, Ritmo Tribale, After Hours, Casino Royale, eccetera, eccetera, eccetera. Sono scelte musicali o le canzoni ti sono rimaste dentro per altre ragioni? Per questi altri motivi, nel senso che è un disco fatto con tanto cuore ma con la stessa componente di testa, di cervello, perché volevo fare un omaggio serio davvero, volevo fare un omaggio sincero, onesto, fare anche un bagno d'umiltà come un attore che si mette a disposizione del copione. Tu ti metti a disposizione delle canzoni per raccontare un momento storico quasi veramente da antropologo, no? O da storiografo, cercando di evitare appunto il più possibile che fosse un disco che ci fosse della retorica del revival, del ricordo di come eravamo fighi, no? Ma cercando di fare un disco di versioni che non di cover. Anni dopo è diventato per certi versi mainstream, cioè in molti si sono affacciati alla TV, fanno concerti con grandi folle. Tu stesso a un certo punto hai avuto la malsana idea di andare a Sanremo e di fare una delle canzoni più belle degli ultimi decenni del Festival di Sanremo. Grazie. Ma lo sanno tutti, perché è proprio quella che aveva fatto svegliare anche le zie che dormivano sul divano e dire: ma chi è bravo? Chi è quello lì? Sai che ancora oggi al supermercato ci sono le signore di 70 anni che mi fermano e dicono: ma doveva vincere lei? La sua canzone era la più bella, né? Vedi. Cosa è successo che poi alla fine voi avevate ragione? Ma no, abbiamo fatto uno sforzo grosso di fare qualcosa che non esisteva. Questo lavoro è fatto anche di fortuna. Abbiamo fatto uno sforzo grosso e probabilmente alcuni che meritavano poi di, insomma, di andare avanti l'hanno fatto. Comunque sono cambiati tantissimo i tempi. Lo senti come un bilancio questo? No. Lo sento come un omaggio. Lo sento come anche voler far in qualche modo diventare questi brani dei classici. Infatti i quattro pilastri che tengono in piedi questa casa, questo disco, sono la voce, la batteria, il pianoforte acustico e la chitarra acustica. Prendi il pianoforte e ti metti a suonare Non è per sempre, ti accorgi che è una grande canzone, così come Cieli Neri, così come altri pezzi, per cui è anche appunto un omaggio, ma anche voler sottolineare appunto che nonostante fossimo scapestrati e abbiamo pian piano conquistato gli spazi della discografia ufficiale con delle canzoni più scure, strane, storte, colte, insomma abbiamo scritto anche delle cose belle e che sono dei classici, ce ne accorgiamo riascoltandole. Grazie a te, ciao ciao. Grazie. Questa Celineri che Mauro Ermanno Giovanardi ha ripreso con Samuel è uno dei pezzi più belli di questa La Mia Generazione. Abbiamo incontrato appunto 2 giorni fa Mauro Ermanno Giovanardi, abbiamo registrato questa intervista. A me dispiaceva non proporla nel nostro RadioTube Social Village perché lui mi piace davvero tanto. Poi questa voce, a me di sentirla in cuffia, c'è una voce pazzesca anche solo quando parla. Allora, abbiamo ancora uno spicchietto del nostro RadioTube Social Village, poi avremo un'ora del nostro RadioTube Social Network, abbiamo un sacco di ospiti per parlare di Genova, noi siamo qui al Salone Nautico di Genova, ma anche per parlare di mare. Allora, l'anno scorso, e comincio a presentarveli perché sono davanti a me in postazione, e poi dopo la viabilità chiacchiereremo con loro fino all'appuntamento con il GR24 delle 17, l'anno scorso li avevamo lasciati con un record. Quest'anno ci faremo raccontare un altro record. E insomma, ormai è un classico avere con noi al nostro sabato in diretta di Radio 24, al nostro RadioTube, il team Malingri. Buongiorno ragazzi, Vittorio e Nico. Salve a tutti. Allora, beh, infatti ormai è un appuntamento che non possiamo perdere, anche perché io così mi aggiorno sui vostri record. Allora, diciamo che ce n'è stato un altro quest'anno? Sì, ce n'è stato un altro, è andato benissimo. Un po' più lungo di quello dell'anno scorso. Un po' più lungo dell'anno scorso, ovviamente, poi vi spiegheremo. Che oggi però vento com'è? Il vento c'è, ma non è buono perché siamo qui per farne un altro di record, ma mi sa che come infatti anche ho visto qui prima sulla vostra pagina Facebook che c'era un no wind. Quindi, ragazzi, voi vi svegliate la mattina e dite wind o no wind oggi? No, right wind soprattutto, perché il vento ci sarebbe anche, ma non quello giusto. Ok, allora dovete raccontarci di un grandissimo record, dovete raccontarci di un'altra sfida che sta ripartendo, però voi siete qui in questi giorni al Salone Nautico, sì. Che impressione vi ha fatto? Come Andrea Ferro ci raccontava prima, un sacco di gente? Sì, certo, il Salone Nautico è già dall'anno scorso, l'anno prima, rivitalizzato. Io ne ho fatti 11 da ragazzino, ragazzi, esporre qua dentro negli anni 70-80. E direi che insomma sta tornando. Ecco, sono molto contenta. Allora, sono le 16:44 minuti e 20 secondi. Noi ci fermiamo per qualche istante perché tutti quelli che sono non in barca ma in auto il sabato pomeriggio hanno bisogno di sapere com'è la situazione su strade e autostrade. L'appuntamento con la viabilità e poi saremo ancora insieme con Nico Vittorio Malingri, anche perché ne hanno combinate di tutti i colori quest'anno. A tra poco. RadioTube Social Village. Ah. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. Allora sì, stiamo navigando, stiamo anzi veleggiando, perché abbiamo con noi al nostro RadioTube Social Village per gli ultimi 10 minuti di questa prima ora di trasmissione veramente due grandissimi campioni che con la vela insomma fanno delle imprese. Non vi sto neanche a raccontare perché ve lo racconteranno loro. Vittorio e Nico Malingri, ancora benvenuti al nostro RadioTube. Skipper e co-skipper, vabbè, accidentalmente anche padre e figlio, però non vi chiedo niente di questo perché poi vi do un altro appuntamento con loro, sempre qui a Radio 24. Allora, l'anno scorso un record, Marsiglia-Tunisi, 42 ore. Ok. Due panini, sì, mangiati, acqua negli occhi dall'inizio alla fine, grande sofferenza, però enorme soddisfazione. Cavalcata una tempesta di colpo di maestrale mostruoso, ed è andata benissimo. Poi siamo venuti qui a Portofino, abbiamo fallito quello che stiamo facendo in questi giorni, questo nuovo tentativo, è per questo che siamo qua. E quest'anno invece, Nico, come ce la siamo passata? L'avete presa ancora più larga quest'anno, eh? Quest'anno è la grande, abbiamo fatto il clou, diciamo, della nostra stagione in collaborazione con Citroen. Abbiamo fatto il record da Dakar a Guadalupe, quindi dalla Frada, il Senegal, dall'Africa fino ai Caraibi in Guadalupe. 11 giorni e 11 ore, per cui un po' più di 42, perché è cambiato tutto. 5.000 chilometri. Esatto, perché 42, vabbè, insomma, come ci si prepara per un'impresa del genere? Come si affronta un'impresa del genere? Cioè, beh, sicuramente ci vuole una capacità tecnica importante. Adesso c'è Vittorio che ha vissuto, diciamo, tutta la sua vita navigando. Ti sta dicendo che lui è giovane, lo sai, vero? Che sta... Sì, lo so, ci chiamano il vecchio e il nano, ragazzi. No, stavo solo sottolineando, se tu non l'avessi colto, sta dicendo perché lui, vabbè. Sì, dunque. E si prepara molto bene a livello di sicurezza, nel senso che sembra una roba molto estrema vederla, anche a pensarci. No, dopo è uno... una roba estrema, ragazzi. È una roba, cioè... molto estrema. Sì, però se uno la guardasse così direbbe: non vado, non parto, non trovo le basi per poter partire. Siccome siamo dei navigatori, abbiamo studiato la faccenda, ci siamo organizzati in modo che anche una roba estrema di questo tipo possa diventare sicura per quelli che sono i presupposti. Sì, diciamo, perché ragazzi, sport il moderno. Dato che manca è che noi navighiamo su una barca, immaginate un pattino, un pedalò, con un albero sopra, cioè non c'è l'interno, non c'è il materasso, non c'è la cucina, non c'è niente. Tu stai fuori, siete in tre, un catamarano da spiaggia due, che si chiama due. Citroen Feel Good, siamo, sì, in due. All'esterno non ci sono interni, per cui tutto quello che passa al convento noi lo prendiamo in faccia. Ok, fantastico, tutto questo per 11 giorni. Che stagione? È andata ad aprile, che però attenzione, non è lo stesso momento meteorologico, certo, del nord, perché è un'area caraibica, quindi quella, diciamo, è la stagione secca. Come avete quando avete deciso la stagione? Perché avete deciso quella? Ma perché io nel 2008, sempre con la stessa barca, avevo fatto lo stesso record in solitario. E l'Aliseo sarebbe un vento costante nei 12 mesi, però anche lui ha dei momenti di alti e bassi. Lì era un momento buono in cui si riusciva se per noi nel record importante il vento è il motore della barca, per cui ci deve essere il vento su tutto il percorso, ancora più importante di quanto puoi essere bravo tu, quello è, diciamo, il tuo motore, perché ci deve essere. E era una grande stagione che garantisce continuità. Siamo rimasti un mesetto e mezzo a aspettare comunque il momento giusto. Ah, ecco, come fate a scegliere quel momento giusto, dire ok, si va? Beh, tu hai, diciamo, un periodo di media stagionale, che tu sai che è più o meno quello. E poi, come il record qui in Liguria, tu tutte le mattine ti svegli, apri 4-5 siti di meteo con diversi modelli, e li confronti tutti quanti, e quando trovi l'occasione giusta parti. Il problema è che il meteo è attendibile a 5 giorni, noi abbiamo fatto nel record questo qui 11, quindi diciamo che cerchi di trovare la prima metà sicura e poi il resto è tendenze stagionali. È più facile farlo da solo o sopportare Nico? No, è più facile. Allora, la barca è talmente piccola che pochissimo spazio diviso due diventa niente, per cui diciamo, okay, è fatto negativo, okay, no? però poter condividere, noi, come forse state capendo, siamo anche molto amici, noi si esce la sera a fare baracca insieme, no? Oh, cioè, fantastico. Non è solo una cosa agonistica per cui abbiamo cercato di metterci insieme. Io e Nico navighiamo da tantissimi anni assieme, abbiamo anche delle barche da scuola vela e condividiamo buona e cattiva sorte, risate e pianti, per cui insomma in due abbiamo una complicità, ci siamo divertiti come dei matti, ragazzi. E adesso perché non è finita, perché tutti i giorni vi svegliate e controllate? Perché abbiamo rimasto questa roba in sospeso, cioè abbiamo fatto il record dell'Atlantico, sì, abbiamo fatto il record del Mediterraneo, poi abbiamo pensato di creare un record tutto italiano, no? Che è qui da Portofino alla Giraglia, che è un'isola a nord della Corsica, e ritorno. Poi abbiamo invitato degli amici per provarci con noi, perché farlo da soli non aveva senso, e questi amici hanno vinto. No, quindi noi abbiamo che smacco tremendo, questa cosa in sospesa, no. E stiamo cercando di portarla a casa anche questa, e questa va fatta adesso, quindi tutti i giorni, sì, voi appunto controllate, abbiamo la banca pronta lì a chiave di Portofino e tutte le mattine si guarda la meteo e si cerca di capire se domani o dopodomani sarà il giorno buono. Siamo qui da un mese anche stavolta. Accidenti. E quanto hai di navigazione? Poco, sono il record è di 17 ore qualcosa, noi ce ne avevamo messe 19 e dobbiamo metterci, insomma, basta un minuto di meno. Sono 300 km andata e ritorno e quindi l'ideale sarebbero 15 ore, ma siccome è un andata e ritorno, non è, di solito tu cerchi il vento in poppa per andare veloce, però siccome devi tornare poi te lo trovi in faccia, quindi è una condizione particolare. Idealmente uno potrebbe metterci 15 ore se volesse, però è molto complessa la zona, le montagne, il golfo, le isole. Che ragazzi, meraviglia. Siamo andati indietro negli archivi meteorologici 3 anni e la situazione perfetta si è verificata 3 volte. Vabbè, allora state qua tutte le mattine, controllate. L'anno prossimo mangiamo tanta focaccia, diciamo. Allora, io vi consiglio intanto di controllare su vittoriomalingri.com, perché ci sono tutti gli aggiornamenti del team Malingri, anche tutti i loro social. Poi domattina alle 11 ci sono i Padri Eterni di Matteo Bussolo e Federico Taddia, e visto che loro sono padre e figlio, ragazzi, andate a fare un giro ai Padri Eterni. Volentieri. Perché io non vi chiedo niente del vostro rapporto, perché vabbè, però avete capito che sono veramente due personaggi davvero ben assortiti tra padre e figlio, quindi so che vi interrogerà un po' domani Federico Taddia. Ragazzi, come si dice in questi casi? Perché si può dire in bocca al lupo? No, si dice in culo alla balena. Ah, in culo alla balena, allora tutte le balene che sono da come Portofino a, ecco, vabbè, va bene, è solo un gesto scaramantico, non ho detto le parolacce in radio, ragazzi. Allora, grazie Vittorio, grazie Nico Malingri. Allora, Malingri, ho detto male, Vittorio e Nico Malingri, andate su vittoriomalingri.com così trovate tutti i loro riferimenti. Davvero grazie, e allora grazie a voi, a domani. Ragazzi, grazie mille. Allora, noi ci salutiamo, ma solo per qualche istante, perché c'è il giornale radio delle 17. Avremo un'ora irresistibile, perché io ve lo dico, la seconda ora del nostro RadioTube, che è RadioTube Social Network, sarà popolata di gente che io in questi giorni ho imparato a conoscere, perché ho guardato tutti i loro video in rete, ma io li conoscevo già perché insomma sono anche personaggi televisivi. Ho riso come una pazza per giorni. Poi parleremo anche di calcio, parleremo anche di Harry Potter, insomma ci sono un sacco di argomenti interessanti, fidatevi di me perché l'ho preparata io la scaletta, se non lo so io, che sarà un'ora bellissima. Adesso c'è una breve pausa, il giornale radio delle 17 e poi saremo ancora insieme con la seconda ora del nostro sabato in diretta di Radio 24 con RadioTube Social Network.